reportage. Ombre russe, l'Europa e il nodo delle sanzioni, di Laura Bettini. Stando ai proclami, tutto proseguirà ancora come negli ultimi due anni, a colpi di sanzioni e controsanzioni, in attesa dell'adempimento degli accordi di Minsk, stipulati per chiudere la crisi ucraina. Ma il forum economico di San Pietroburgo, la cosiddetta Davos russa della prossima settimana, potrebbe riservare qualche sorpresa. All'edizione 2016 sono attesi il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, il presidente della Commissione europea, Juncker, e l'Italia sarà l'ospite d'onore, tanto che le è stata data la possibilità di allestire un padiglione in cui compariranno ovviamente le istituzioni, ma anche alcuni big italiani. Ci basterà nominare Banca Intesa e Finmeccanica per capire il calibro. Ma non mancherà neanche il nuovo che avanza, come la Concern General Invest, società di investimenti svizzera, del banchiere italiano Vincenzo Trani, colui che tra le mille altre cose ha finanziato il car sharing di Mosca, plasmandolo sul modello di quello milanese. Trani è anche vicepresidente della Camera di Commercio Italo-Russa e dell'associazione GIM Un'Impresa, imprenditori italiani in Russia. Questo tanto per dare un'idea di quanto sia piccolo il mondo italo-russo, nonostante un'amicizia che ha radici nel lontano e vicino passato, grandi aspirazioni per il futuro e un interscambio notevole. Almeno fino alla rivoluzione ucraina e alle sanzioni che Stati Uniti ed Europa hanno imposto alla Russia e l'embargo con cui ha risposto Mosca. In giro però c'è una gran voglia di tornare a fare affari con la Russia, ma qui si torna al punto di partenza, agli accordi di Minsk del settembre 2014. Matteo Villa è ricercatore dell'area Europa dell'ISPI. Gli accordi sono stati siglati ormai più di un anno fa e richiedevano che le parti, cioè Ucraina e Russia, facessero il più possibile per arrivare a un cessate il fuoco e poi tornare sulle proprie posizioni. In realtà gli accordi, come hanno diversi tanti punti molto, molto complicati, però la cosa più importante, almeno dal punto di vista della comunità internazionale, era quella di ripristinare la totale integrità territoriale dell'Ucraina e d'altro canto chiedere all'Ucraina una certa delocalizzazione dei poteri, in modo da venire incontro anche alle richieste dei separatisti. Questo non è avvenuto e quindi adesso si ritorna a trattare sulle sanzioni possibili e sul loro prolungamento verso la Russia, perché si continua a pensare che il governo russo abbia una certa influenza sui separatisti e che quindi questi non facciano niente per ripristinare l'integrità territoriale dell'Ucraina perché influenzati dal governo russo. Ora, anche se le azioni dell'Ucraina sono forse al minimo storico dai tempi della crisi e la Russia mostra delle aperture, come si fa a far marcia indietro? Non sono sanzioni, ma contromisure, ci corregge il professor Natalino Ronzitti, professore emerito di diritto internazionale alla LUISS di Roma e consigliere scientifico dello IAI. Le sanzioni le dà solo l'ONU, dice. Ma comunque, anche se potenzialmente si può andare avanti all'infinito, qui nessuno ha interesse probabilmente a farlo. Il grosso problema, a mio avviso, resta la Crimea, perché la Crimea è stata una violazione nei confronti delle regole anche della sicurezza europea. Spesso ci si dimentica l'atto finale di Helsinki del 1975, ma questo era la base della sicurezza, era ed è la base della sicurezza europea, che non possono essere effettuate delle mutamenti delle frontiere mediante l'uso della forza. Ora, è ovvio che da un altro punto di vista molti potrebbero dire: ma questo apparteneva prima all'Unione Sovietica, però non si può ragionare, a mio avviso, in questi termini, perché le regole della sicurezza europea sono ben chiare a questo riguardo. La Federazione Russa ogni volta evoca la questione del Kosovo, ma la questione del Kosovo è un po' differente, nel senso che là c'è un paese che è seceduto, ma qua, per quanto riguarda la Crimea, la secessione è avvenuta con la presenza dei russi nel territorio. Se se e come si risolverà la situazione lo vedremo presto. A fine luglio l'Unione Europea dovrà prendere una decisione. Potrebbe rinnovare per 6 mesi oppure per 1 anno le contromisure che colpiscono i settori della difesa, dell'energia e del sistema bancario russo. Comunque Mosca ha già annunciato che se colpita rinnoverà le contromisure già adottate fino alla fine del 2017 e quindi restrizioni alle importazioni di agroalimentare europeo, restrizioni ad alcuni acquisti della pubblica amministrazione come dispositivi medici e veicoli, divieto di esportazione di pellami, divieto di importazione di sottoprodotti della carne. Che cosa ha significato tutto questo per l'Italia? Maurizio Dall'Occhio è docente di finanza aziendale alla Università Bocconi di Milano. Bisogna smontare questa idea che noi esportiamo soltanto fashion, in realtà esportiamo tanta economia reale pesante, la meccanica e la meccanica di precisione in modo particolare. Anche naturalmente quando si parla di prodotti di fashion non possiamo dimenticare il mobile, che pure è molto desiderato dalla Russia. 4-5 settori fanno davvero quasi la totalità del rapporto. Le imprese italiane sono, quanto ad importazione, il quarto più importante interlocutore della Russia e quanto ad esportazione il decimo più importante interlocutore del paese. Se noi consideriamo quello che dinamicamente era successo fino al 2014, per cui diciamo prima che le sanzioni venissero applicate, e le previsioni di sviluppo del rapporto commerciale Italia-Russia, possiamo stimare che nel corso del periodo 2014-2015 la perdita di rapporto commerciale solo all'esportazione sia stato nell'ordine dei 3 miliardi di euro. Il 2015 si è concluso, c'è tutto il 2016, soltanto facendo una proiezione di natura meramente lineare possiamo dire che 5 miliardi e mezzo è una stima assolutamente ragionevole di quello che le imprese italiane non sono riuscite a vendere in un paese che di prodotti di nostra produzione è particolarmente ghiotto. I nostri concorrenti, Germania e Francia in testa, hanno perso meno di noi però da questa situazione, in cui invece comunque hanno guadagnato due big. I due interlocutori che hanno tratto maggiore giovamento sono ovviamente i paesi dell'estremo oriente, Cina in testa. L'altro interlocutore è ovviamente l'interlocutore statunitense, il quale, pragmatico come sempre, in una logica di realpolitik, voce alta nei confronti politici, ma sotto il profilo del rapporto commerciale, sempre attenti a cogliere le occasioni. La Russia comunque avrà sempre bisogno di prodotti, sottolinea Dall'Occhio. Tolte banche, petrolio e gas, alla borsa di Mosca c'è poco altro. E allora andiamo sulla pratica, con Rosario Alessandrello, un passato da presidente di Tecnimont, oggi presidente della Camera di Commercio Italo-Russa. Un fatto di fondo è che se l'Italia ha le filiere che ha perso, non sarà facile se conquistarle. Comunque oggi sicuramente è uno sviluppo c'è nell'industria chimica e c'è un successo molto nell'industria farmaceutica, perché l'Italia è il primo paese che si è in Europa che praticamente si ha spostato l'esportazione più nella materia prima che non nel prodotto imballato. Ultima considerazione, che non è da poco, che avendo la Russia scelto la russificazione dei prodotti, l'Italia è stata la prima, data la sua flessibilità di piccole e medie aziende, si sta cercando di partner adatti per fare una filiera che è un misto fra Italia e Russia. Konstantin Krokin è un po' il corrispettivo di Alessandrello perché presiede la Commissione per la cooperazione con l'Italia presso la Camera di Commercio di Mosca. We want to cooperate and to do a lot in Russia, to do production. Noi vogliamo cooperare e produrre di più in Russia. Vogliamo sviluppare la nostra abilità di produrre beni e commodities. L'Italia ha lo status speciale di partner nel forum e questo ci dà l'opportunità di sviluppare la cooperazione, ma di nuovo, non per comprare o vendere beni, ma per fare qualcosa, in campo agricolo ad esempio, o nell'innovazione. Dal forum ci aspettiamo un'accelerazione della cooperazione tra gli imprenditori russi e quelli italiani. Sfortunatamente, dal punto di vista della nostra Camera di Commercio, finora abbiamo sentito molte parole e molte dichiarazioni da parte dei partner italiani, ma negli ultimi 2 anni non abbiamo visto molti progetti realizzati. Saranno una decina, sebbene il potenziale sia altissimo, e ci siano altri 200 progetti che potrebbero andare avanti. Per un progetto miliardario nel campo del gas o del petrolio che va in porto, ce ne sarebbero moltissimi altri in campo agricolo, chimico o tecnologico che potrebbero funzionare. Perché, chiediamo al professor Dall'Occhio, ci adagiamo quando in fondo abbiamo bisogno di lavorare? Le nostre imprese si sono autoappagate del mercato europeo e si sono ritirate dall'investimento in un mercato nuovo e politicamente difficile come quello della Russia. Vorrebbe delle prese di posizione che non si vogliono prendere. Come ha fatto il Parlamento francese, che ha appena approvato una mozione per l'alleggerimento delle sanzioni alla Russia. La prossima settimana, a questa stessa ora, sapremo se anche il premier Renzi avrà preso a San Pietroburgo una posizione di lotta o di governo. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.